indovino, non sono presuntuoso, ma io so la verità. È la tua timidezza che non ti fa parlare, ma il tuo cuore già lo sa. Due semplici parole da te vorrei sentire, amore mio. Non arrossire, lasciati andare in nome dell'amore. Ti prego dimmelo, se mi vuoi bene dimmelo. Non aspettare, non farmi soffrire senza un perché. Amore dimmelo, se mi vuoi bene dimmelo. Lascia parlare il cuore che vuol gridare la verità. Lascia parlare il cuore che vuol gridare la verità. Che forse non va più di moda. Credo ancora alla magica luna e al profumo di un fior. Lo confesso, io sono un romantico, un sognatore. Voglio credere al sentimento che viene dal cuore. Guardo negli occhi e capisco perché. Dove nasce il mio sogno? Dal mio amore per te. Io vorrei regalarti le cose più belle del mondo. Io vorrei diventare poeta e parlarti d'amore, perché tu non sai che ti amo, perché tu sorridi al mio cuore. Vorrei essere pittore e dipingere quel tuo bel viso, i tuoi occhi stupendi e le labbra assetate d'amore. Se questo è un sogno, non voglio svegliarmi, perché nel mio sogno io posso averti soltanto per me. Nel mio sogno io posso averti soltanto per me. Ogni volta che canto, io vorrei regalare a qualcuno un momento sereno, perché la gente ha bisogno di musica fatta con semplicità. un po' di poesia e una semplice storia d'amore. Ed allora io canto alla gente e canto col cuore. Canzone, tu che sai regalare emozioni a chi cerca un momento felice e senza pensieri. Canzone, che racconti le storie d'amore e ricordi le cose più belle di oggi e di ieri. Canzone, una lacrima tu sai rubare a chi pensa a un amore perduto, a un cuore ferito. Canzone, canzone mia, sei l'amica fedele che il tempo non porta mai via. Canzone, sei l'amica fedele che il tempo non porta mai via.